italianos tienen que saber que la cumbia es el futuro. Así que. Pacto viscum donna. Pusimos toda música tropical bajo un techo y le pusimos salsa. La esquina del sol. Parole música de la América Latina. Los paramilitares desaparecieron a mis dos hijos en el 2 de febrero del año 2003. Y hasta la presente no sé dónde estarán. Las madres de Plaza de Mayo tomaron la Catedral Metropolitana para aunar en protesta por la falta de entrega de fondos estatales destinados a sus proyectos de viviendas populares en la capital argentina. La esquina del sol. Tu pillo de vi, dale 17, 57 y 9 de Radio La Rosa. El pueblo se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti giovedì dalle 17 sugli 87.9 di Radio Andalusia. Todos los jueves a las 17, La Esquina del Sur, Tupi Frecuencia y Radio Onda Rosa. Bentrovati, bentrovate anche per questa puntata della Schiena del Soul, ormai tornata. Pensavate che vi avrei lasciato in faccia, invece no, anzi siamo anche allungati di un'ora e mezza perché, come insomma avrete immaginato, in un'ora era un po' stretto così riuscire a parlare di tutta una serie di cose. Cominciamo comunque con la musica prima di dare spazio alle parole. Allora io vorrei cominciare con calma oggi, perché anche sulla musica ci sarà da parlare, perché manca la musica, state quieti, no? Bisogna recriminare anche su quella. E allora, siccome io invece so dove vado, so quello che voglio, come lo voglio e come lo faccio, mettiamo subito le cose in chiaro. Però vorrei aprire, così come ormai questa, ve l'ho detto l'altra volta, insomma io so 11 anni fa ho portato la cumbia a Roma, come di solito mio cerco di spremere il sangue dai rape, per cui penso che so tutti, la cumbia è stata presa e ne è stato fatto tanto, di cui molto a me mi fa cagare, lo posso dire, perché è ristretta a un'elite molto bianca, molto elettronica, che quindi insomma si può permettere tutta una serie di cose, e è bello questo, è molto bello, figuratevi. Però io credo che io almeno voglio fare un'altra cosa, e soprattutto non voglio mischiare la cumbia con la merda, no? Non si può qua parlare di sfruttamento dei campesinos se poi ballare 8 ore di seguito aiutati da ciò che i campesinos vengono massacrati per coltivare. Oh no, ve lo scordate che sono super vetero. E allora questa trasmissione si vuole un po' invece connotare nella sua nei suoi secondi 12 anni in cui vi tedierà con la cumbia. Ho proprio deciso che voglio prendere le energie della cumbia migliore, quindi quella che viene dal popolo, quella che viene dalle origini, che ha premiato il meticciato di popoli che con pazienza ma con solidarietà si sono mischiati proprio a far nascere dalla cumbia le percussioni africane, piuttosto che il flauto degli indios della selva, piuttosto che gli strumenti del conquistatore, cosa che di cui i popoli si sono appropriati e che ne hanno fatta un'enorme ricchezza. Adesso la cumbia poi ha avuto un'enorme evoluzione, quindi oltre a questa che sopravvive in maniera, devo dire, eclatante e dignitosissima, la cumbia torna anche a essere la musica trasversale dei movimenti. Abbiamo sentito la cumbia accompagnare il movimento transfemminista per la richiesta della lei sull'aborto legale gratuito per il corpo gestante, per i corpi gestanti in Argentina. Abbiamo visto la cumbia accompagnare i settori dei lavoratori negli scioperi in Cile. Abbiamo sentito la cumbia comunque accompagnare tantissimi momenti della quotidianità del pueblo, del popolo, di chi viene dal basso. E allora, che sia una trasmissione de cumbia bruta, de cumbia marica, de cumbia trava, de cumbia trans, de cumbia lesbiana, de cumbia torta, perché allora io così sono contenta. E allora, cumbia poi accompagnata anche dai generi fratelli e sorelle che attraversano queste realtà. E allora Susie Shock, nota artista trans, che insomma oltre alla musica si dedica al teatro, alla poesia e anche alla musica. E allora la trasmissione di oggi, con orgoglio, la voglio aprire con un tango che si chiama Tango Puto e Puta de Susie Shock. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estrías, tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita ya no es costurera, sabe sus derechos, odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegoría, este tango roto que se armará. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tango con garra y para de llorar. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo, chocan autopistas, a este tango raro Francisco no lo querrá. Tango sudaca, tango de acá, tango que marcha por la diversidad. Tango sudaca, tango de acá, tan monstruos, tango que marcha por la diversidad. ¡Hey! ¡Tango! Con sus expectativas, lo que pasa es que soy un poco conflictiva. Me motiva la polémica de las artes escénicas. Nadie corre el telón, las butacas están llenas. Prenden la luz y solo se proyectan sombras. Nadie me nombra, pero salgo a la penumbra. Allora sì, sicuramente questo non è il, come dire, il brano più movimentato di Rebecca Lane, ma io speravo che lei si introducesse dicendo il suo nome e cognome, perché devo dire che ho fatto tre trasmissioni quest'anno, tre dall'estate, tre ne ho fatte, no, quattro, di cui due erano le interviste. Ma con un certo vigore mi è stato scritto più di una volta in forma privata sulla pagina della trasmissione, piuttosto che oggi sulla pagina della radio. Diciamo, quello che un po' mi meraviglia è la brutalità con cui mi viene sottolineato, ma capisco che siamo tutti un po' incarogniti, io penso sempre di essere la peggio, invece poi mi smentite. Allora, spieghiamo questa cosa. Perché Rebecca Lane si chiama, non è che ce la chiamo io, riga, si chiama Rebecca Lane. Intanto, perché se lei nel suo disco io sento che si dice io Rebecca Lane, io la chiamo Lane. Anche se avessi letto Chihuahua e lei avesse detto Lane, probabilmente io avrei detto Lane. Detto ciò, io capisco che voi sapete che lei è guatemalteca e questo è bellissimo che voi vi interessate. Io capisco che voi fate un pensiero rispettoso dicendo: ma se chi lo parla spagnolo, perché si deve chiamare Lane e non Lane? Ma così, casomai perché lei decide come si chiama? Casomai perché c'ha lo zio, la zia gringa, che ne so. Quindi io direi che sì, se io la chiamassi Rebecca Lane, nonostante forse sentite poco la sua musica, ma lei si nomina spesso, penserei di essere un tantino così, un po' primermondista neocoloniale, sapete, sono sempre leggera. Ma io credo che se una che si chiama Rebecca Lane ed è guatemalteca, e quando si chiama Rebecca Lane, io credo che noi possiamo chiamarla Rebecca Lane, no? No, lo dico io, eh. Esa atrás era una muchacha cualquiera. Al verme en el espejo, el corazón se me hizo piedra. Es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de... Hoy tengo ganas de cantar incoherencias. Feminista, posmoderna, de la eterna primavera. Intento vivir del arte aunque realmente no quiera. Me perdí en el tiempo y me equivoqué de era. No es cualquiera la que se rompe la pierna en las tablas, la que lastima su voz porque la acústica está mala. En Guatemala, con el alma astillada, antes de verme triunfar me tirarán una granada. Para nada agradezco que critiquen mi fachada. No me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada. Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto no tiene control moral ni hormonal, por supuesto. Les apuesto que no pagarán por esto. Me criticarán porque no soy lo que quisieron. Querían relajarse, no oír mi conflicto interno. Para soportarme deberán comerse hiedra venenosa. Poesía venenosa, por los poros sudo, poesía venenosa. Nada tiene... Mi piace questa definizione di poesia velenosa. A me volte, insomma, diciamo, le botte d'emboli che mi parlano mi danno della creatività così a insultare, a ricamare, che insomma la capisco molto. Venenosa, nada tiene sentido si lo digo en el delirio. Se termina la función, regálenme ramos de venenosa. Insomma, scherzi a parte, è stato veramente arricchente incontrare Rebecca Lane. Desde Los Ángeles, Cypher Effect. Esto es relazioni che si aprono poi non si chiudono più, questa è la cosa bella, nonostante la distanza. E allora io, mentre ancora scivola la base di Rebecchita, no, I don't wanna love you. Questo è un po' il mio pezzo di San Valentino. Usciamo dal Sud America perché certe pantere degli anni 70 lo hanno detto benissimo, soprattutto quando, diciamo, pagavano il fatto di essere nel 1973 una stanga di fanchettona chiamata Betty Davis, una di quelle molto sfacciate che, insomma, sbatteva in faccia quello che voleva sui palchi, sulle telecamere. Beh, questo non gli ha mai pagato troppa fortuna, tant'è vero che è diventata spesso più famosa per essere la fidanzata di Miles Davis, che lo faceva sbroccare facendo l'amante di Jimi Hendrix, piuttosto che invece i dischi funk stupendi che ha fatto che hanno uno spessore infinito. Certo, la vita per le donne e soprattutto per le donne afroamericane nell'ambito del funk che stava andando alla ribalta era piuttosto complicato. Sappiamo di gruppi enormi, penso Sly and the Family Stone, dove spesso le donne hanno dichiarato di, nonostante fosse una fantastica famiglia basata sui principi degli anni 70, quindi l'amore, a volte il poliamore, la libertà, le scoperte, così, insomma, come sempre le chiacchiere sono facili, i fatti sono un tantino più complicati. E allora, come oggi a me proprio mi doveva capitare sto San Valentino, alle 17:22 grande Bette Davis dall'alto dei suoi stivaloni argentati questa bellissima anti-love song. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you, 'cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure you say you're right on and you're righteous, but with me I know you'd be right off. 'Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me hard. That's why I don't wanna love you. I know what you do to my heart. You scorch it just like a hot iron. Oh, leave me burning alone in the dark. 'Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you just take me in a circle. When it got real, I know you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Cause I know you like to be in charge. And with me, well, you know you couldn't control it, don't you? 'Cause you know I'd make you drop your guard. In your ego, I'd make you pocket your pride. And just as hard as I'd be loving you, boy, well, you know you'd be loving me harder. That's why I don't wanna love you. Qualcuno direbbe c'è ancora tanto da lavorare. Potentissima Bette Davis, poi con sto nome, capirai, negli anni 70 penso proprio la confusione fosse tanta. Beh, è la storia delle donne, quelle di dove arriva, no? 30 anni dopo fare successo o comunque dovere levare l'ombra, le cortine di altri per poter rilucere di luce propria. Ma ci siamo qui noi a lucidare i fari, a dare luce a queste mitiche lampadine. Una settimana che ci ha fermato il cuore, insomma, è inutile che lo neghiamo, questa è la settimana post asilo, quella dell'odio, del rancore, di una quantità di rabbia, vero? A vedere che succedono cose che sembrano normali, che di normali non hanno niente, ma a parte le modalità dello sgombro in sé, però voglio dire, diciamo anche quello che è successo i giorni dopo, insomma, via. Poi quella si chiama appendino, una provocazione proprio, no? Come fai a non dirgli appendino a testa, già, no? non so se lo posso dire un po' qua, ci chiudono, però diciamo 17-27 minuti. Allora, questa proprio la vorrei dedicare, compagni, alle compagne dell'asilo occupato, a chi ha resistito sul tetto 30 ore, a chi è stato arrestato, a chi non è uscito, a chi 270 bis, che merda, a chi devastazione e saccheggio. Allora, questo è il flow partesano, tremenda cauria. Tremenda cauria, cabrona. Arditi mordiendo las pastas de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, maltrato no fallo. Este es el flow partisano. Ecco, questi sono i trillini che mi piacciono a me. Rugo su grave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, de la paciencia el flow estalla. Grave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Yeah, con tremenda jauría, cabronas, en la Z y la O y la O, Valencia, Madrid, conexión. Y el pasado se queja, cuesta avanzar, el camino se estrecha, crecen las flores, abonadas por cuerpos de los que lucharon, crecen las flores, regadas por sangre de los que pelearon. Ancora, ancora, ci sto fino a stasera a rimetterla. Dai, asilo, dai, tutte e tutti liberi e libere. Grave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metralla, de la paciencia, flow estalla. Brujos, grave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bailando en la pista. Yeah, con tremenda jauría, cabronas. Arditi mordiendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, maltrato no fallo. Este es el flow partisano. Micros en guardia, la de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, si vamos todas a una. Ruge su clave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar, de la paciencia el drope estalla. Grave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano bailando en la pista. Flow partisano. A la sombra de una flor. Así la gente cuando la vea gritará: ¡Revolución! Escuta bem que essa podia ser pra você, viu? Na verdade, quem sabe ela não é. Coitada. Coitada. Coitada. Sicuramente estrema questa cugina con tre bellissime ragazze. Una bellissima bandiera brasiliana a fare da sfondo. Pude até ser o último boy do planeta que eu vou dar pra Deus e o mundo. Tocca imparar português, liga. Tu pude até ser o último boy do planeta que eu vou dar pra Deus e o mundo. Vou dar até pro capeta. Mas se depender de mim. Mas se depender de mim. Che vi piaccia o no, Linda che brava passerà almeno una volta in questa trasmissione per unirsi alla pneumonia di Bolsonaro e fare sì che questa si moltiplichi per mille, rendendogli impossibile la vita con torcenti dolori e lunga e lenta la morte. Bolsonaro, tu stai in ospedale, che qua ci si diverte in cucina. Allora non vi preoccupate, stiamo solo cercando di mandare questo ritmo potentissimo fino a San Paolo, dove nell'ospedale c'è il presidente ancora con la flebange e la pneumonange. Ma insomma, noi piano piano dal Brasile. Ci spostiamo invece verso Cuba. Non c'è nessun ritmo che non va bene. È quello che ci si mette dentro che fa la differenza. Me quedo por aquí, creo que estoy bien instalada. El trópico es el trópico es en La Habana. Que si quieres nada no necesitas paterrana. El trópico está hecho de cubanas educadas que acaban de salir de Cana hace una semana. Tra, tra, tra, la música es africana. Cuando se abrió el telón se vio una silueta gitana. Los tambores y las nalgas agitadas. Uno le gritó bastarda, otro que está bien mezclada. Tra, tra, tra, llegaron las motos. Los cuatro moqueteros con los jeans bien rotos. Nena, y como si fuera poco, me invitaron a su mesa, pero yo no puedo, loco. Tra, tra, tra, tra, no puedo, loco. Yo no puedo, loco. Tra, tra, tra, tra, tra, loco. Nelson, la chamaca de solar de mi barrio. Le gusta la guaracha y no le gusta el comentario. Siempre está en el party con champaña en la mesa. Pero si se marea, anaconda se enreda. Ana tiene casa, pero es callejera. Siempre acompañada, aunque sola la veas. Cuidado que está sabrosa, sabe a miel de abeja. Y si te mareas, anaconda te enreda con caña. Te marea, anaconda te enreda con paya. Yo no puedo, loco. Y si te marea, anaconda te enreda. Que te me está mirando, eres bajita, reboca en el pan. Págate en esta cera, o cómprate un peso, paga tu negra de barrio. Vete, ya no queda nada, y todos esos negros los eliminan. Te pide a joder otra paz. Por ahí yo llego, se va. Para la cara se va por atrás. No tengo miedo de nada. Cuando tú ibas para, yo regresaba sentada. Te pide a joder otra paz. Ana está en la mente, es que me lo cubano. También es religiosa, pero no te hace milagros. Se complica y se desordena. Y si se marea, anaconda se enreda. Ana tiene casa, pero es callejera. Siempre acompañada, aunque sola la veas. Cuidado que está sabrosa, sabe a miel de abeja. Y si te mareas, anaconda te enreda con... La dama Blanche, no puedo, loco. Y si te marea, anaconda te enreda. E allora, insomma, era la grande Dame Blanche, insomma, diciamo che non è proprio una bella potentona, anche lei cubana, andata a vivere in Francia da quando era bambina, una famiglia di musicisti, quindi diciamo che si può permettere di fare dal mezzo trap come questo a invece suonare dal vivo col bellissimo flauto traverso. Lei tra l'altro suona il flauto traverso, questo sigaro cubano in mano, è uno spettacolo. E allora probabilmente poi anche crescere a Cuba e poi entrare in questo nostro continente fa capire tante cose, no? Va bene, noi vogliamo rimanere in Argentina, continuare questo San Valentino di provocazioni, visto che oggi veramente, raga, che pesantezza. E allora lo voglio fare con un'altra canzone spensierata, spensierata. A me fa venire i brividi la voce di Lido Pimienta. Ah, bella, perché tutto quello che è successo nella nostra relazione, che a fine te lo metto a tras. Allora, prima io ero il tuo cane, adesso sei tu il mio perro. Però tutto finisce, diciamo, con una certa creatività divertente, ecco, cosa che io vi invito a fare per San Valentino. Meno rose, più dildi. Meno bottiglie di champagne, più lubrificante. Se vuoi di... La fatica, i fiori, poi sono tagliati, tocca più all'acqua che si spreca, tocca metterli nel vaso, invece uno semplicemente arriva a casa, si spoglia. 17:42 minuti, lo sapete, sto scherzando, invece adesso entreremo proprio nel serio. Tra, tra, tra, tra, tra, tra. Si yo me pongo atrás, si yo me pongo atrás. Beh, insomma, approfittiamo di questa così, di questa abbassare anche i ritmi, i toni, per entrare a parlare un po' di qualcosa di serio. Infatti è grazie al fuso orario che in queste ore intanto Facundo Jones Wala, insomma, ormai sapete chi è, il grande lonco Wechafe, il grande lonco guerriero della comunità di Kusciame, che dal 27 gennaio si trova ormai al 18esimo, se non sbaglio, 19esimo giorno di sciopero della fame. Non è un unico processo quello che si trova ad affrontare in Cile, dove sapete che è stato illegalmente estradato e dove è iniziato il processo per i motivi per cui è stato estradato, ma come sapete bene, i processi non vengono mai da soli, purtroppo, ahimè, e quindi il lonco oggi, insieme ad altri compagni e compagni mapuche, si trovava a affrontare un altro processo, un processo molto particolare, e che ci sentiamo di dover parlare, visto che a volere questo processo è stato Luciano, uno dei due rimasti dei quattro fratelli Benetton. Questo, insomma, mettiamo un po' nella questione Bolsonaro anche, no? Ecco, impariamo a concentrarci bene. Oggi, quindi due giorni fa, è iniziato il giudizio contro la comunità mapuche Pull Off di resistenza Kusciamen per possesso di armi, usurpazione di territorio e abigeato, ovvero furto di bestiame. La causa è stata intentata da Benetton ed è sostenuta dal governo di Chubut, aggiungerei suo servo, nella persona del suo procuratore generale Jorge Luis Miquel Arena. I pubblici ministeri Oscar Oro, che poi è stato devastantemente sospeso perché ha dovuto ritirare le accuse perché non è riuscito a trovare mezza prova per motivarle, e Diaz Mayer, a che l'ha sostituito, avevano ritirato le accuse contro la comunità per mancanza di prove. Ma il procuratore generale, che insomma va a giocare a golf insieme a Benetton, ha riproposto la denuncia, chissà com'è. Miquel Arena è stato uno dei procuratori generali della Patagonia che ha ricevuto istruzioni dirette da parte della ministra di sicurezza della nazione, Patricia Bullrich, per avanzare la causa contro la RAM, la resistenza ancestrale mapuche. Gli imputati sono Facundo Jones Wala, che sta scontando una condanna in Cile, Andrea Vignagnanco, Fernando Eloy, Jones Wala, cioè il fratello di Facundo, Mattia Santana, Rodrigo Caramiglio, Sergio Ruiz, Nicolas Hernández Wallace. Questo nuovo processo giudiziario è viziato dal momento che vi è stata una denuncia del fatto che sono stati trovati rapporti di intelligence utilizzati da un gruppo di procuratori di Chubut per perseguire Jones Wala, cioè sono venute a pubblica conoscenza delle carte che premevano i magistrati perché non mollassero questo processo. Le spie dell'onco sono sotto processo, così come i pubblici ministeri, benché sia stato fatto un tentativo per salvarli. Un'altra situazione scandalosa è quella denunciata da Gonzalo Cabrera e pubblicata dal giornalista Sebastian Premici sul portale Cadena del Sur, in cui viene costretto a fornire informazioni su Jones Wala. Ha detto di essere stato perseguitato e torturato dalla polizia di Chubut, incluso il tentativo di sparargli. E poi gli è stata consegnata una sorta di sceneggiatura di quello che avrebbe dovuto dichiarare. Secondo la madre del 19enne, è stato il procuratore federale Silvia Navila a essere stata incaricata di fornire la sceneggiatura. In questo primo giorno di processo sono state ascoltate le argomentazioni delle parti. Il fatto per cui la causa viene perseguita è la presa in possesso delle terre del ranch Leleque il 13 marzo 2015 da parte della comunità Mapuche. Cioè, il ranch Leleque ruba le terre ai Mapuche nel 93, che poi Mapuche ritornano nel 2015, così è andata. Va chiarito che Benetton è il più grande proprietario straniero delle terre argentine attraverso la sua società Campagna de Tierra Sur Argentino S.A. In Argentina possiede 900.000 ettari acquisiti nella decade degli anni 90 e con un prezzo al metro quadro di 80 centesimi. L'azienda in questione, Leleque, è stata una delle prime ad essere acquisita dall'azienda per l'allevamento di pecore ai fini dell'usufrutto della lana. Se, diciamo, ai fini dell'usufrutto della lana. Nel senso che se quelle pecore dovessero pascolare 900.000 ettari, gli ci vorrebbero le scarpe da montagna, no? Perché comunque... Tuttavia, al momento dell'aggiudicazione delle terre non si è tenuto conto della presenza delle 120 comunità che abitavano quelle terre e che da allora hanno subito pressioni di ogni tipo perché abbandonassero il territorio. Anche questo mi tengo a precisare che invece diciamo se ne era a conoscenza, perché c'era stato un genocidio nel deserto, c'era stato esattamente in quelle terre erano state cacciate le comunità, motivo per cui poi il pull off in resistenza dei Kushamen è dovuto tornare a reinstallarsi sulla propria terra. Quindi insomma anche questo è vero fino a un certo punto. Sta di fatto che siamo in attesa di capire che cosa sta succedendo al processo che si sta svolgendo in queste ore, e lo sapete che lo facciamo sempre però con tanta convinzione, ma con un po' di paura, nel senso che quello che ci aspettiamo non è sicuramente il rispetto dei diritti. Time to play. If I'm selling one to a chin, ventilating, when you're trying, time to win, time, I'll win. Allora, diciamo che il lonco Facundo Jones Wala tra il Cile e l'Argentina sta talmente ricoperto di processi che è un po' difficile fare il punto della situazione. Quello è questo, quello che succede in Argentina, mentre in Cile intanto il lonco ha ricevuto questo contentino, perché insomma poi quando vedete sembra che gli danno chissà quale speranza, consentendogli tra l'altro una cosa di diritto, perché la Costituzione cilena e argentina prevedono che i prigionieri possano svolgere i propri rituali spirituali anche se detenuti, e quindi viene dato questo permesso a Lonco e poi gli vengono dati anni di galera come se piovesse per dei processi improbabili che non sono anche i dovuti processi basati sulla più semplice sui più semplici diritti di giusto processo e di diritti del detenuto. Intanto noi ci stiamo ascoltando un po' di sano hip hop in Mapu Dungun, che è una lingua bellissima, insomma anche molto valida, perché nella sua storia ha dovuto, molto valida nel senso che è molto descrittiva, nel senso che per ogni personaggio ci sono tantissimi aggettivi che si possono usare a seconda che quella persona sia da definire in maniera malvagia, in maniera solo un po' cattiva, in maniera normale, oppure in maniera un po' affettuosa, oppure perché l'amo tremendamente. Quindi questo è bellissimo. I bianchi, i colonizzatori, i neocolonizzatori, i cileni bianchi vengono dispregiatamente chiamati gli Winca, così venivano chiamati gli spagnoli dai Mapuche. E si continua a usare Winca quando si parla di Benetton, per esempio, che veramente rappresenta molto bene il Winca. E poi non mi chiedete quali sono, ecco, diciamo il mio Mapudungun è molto limitato, ma invece essendoci ormai dei bianchi solidali ci sono altri tipo 11 modi di chiamare i bianchi cileni, che possono essere o il nemico, ovvero il Winca, oppure il bianco solidale, che verrà chiamato in un altro modo. Non mi chiedete quale, nonostante mi sia stato detto, per quanto mi riguarda è impossibile da ricordare. Dunque, io sto cercando di aspettare le notizie che stanno arrivando da Santiago, dove oggi Lonco aveva un altro processo, questa volta insomma riguarda non solo il processo per cui lui è stato estradato, ovvero quello dei Pisu Pisue, ma insomma ci sono tutta una serie per cui lui avrebbe varcato la frontiera, insomma è una cosa un po' complicata da ridire, ma noi stiamo aspettando che ci arrivino le notizie da chi sta lì fuori, perché insomma la voce che voi sentite sempre qui adesso è a Santiago sotto il tribunale, e io vedo se riuscirò a chiamarla in diretta oppure comunque a farmi dare delle notizie calde del momento. Intanto noi ci continuiamo a sentire Rebecca Lane, questa volta insieme a Katie Gorick, Quelle Histoire. Tribus urbaines, surbite ou dans le cœur, à l'origine comme une griotte, ma voix agit pour le bien même si les nous écœurent. De vérité folle en récit en tout genre, je comprends qu'en pensant ce qu'on fait, bah y'a tout qui change. J'ai pas dit que c'était simple, on attend autre chose de nous, mais gros le temps que tu t'en rendes compte, c'est déjà le point de non-retour. J'ai pas de secret pour ma plume, tout un tas pour les êtres humains. Regarde les vivre dans la méfiance et dire que c'est presque rien. Regarde-nous unifier les éléments depuis nos hémisphères, relève l'élégance. Derrière un message clair, il faut que tu partages tes connaissances, que ceux qui t'entourent fasse le connaissance. Coûte que coûte, tu dois prendre la route, ton intuition t'indiquera le sens. Le sport seul est celui qui a perdu l'usage de sa langue. La parole est sacrée quand t'ouvres ta bouche et aux fesses incessamment. Quel rôle tu penses endosser dans ce taillat, ta dossier étudie intensément, échange ou péril. Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire dans la histoire de mes cicatrices. Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique, autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. Je raconte mon histoire. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría. Cuento la historia de mis cicatrices. Porque en ellas se encuentran lo aprendido, algunas heridas que aún duelen a la luz de la luna, o las líneas de mi mano donde leo mi fortuna. La palabra es semilla que nace de las flores, de la sabiduría, de las cosas vividas, de las vías perdidas, de lo que fue y lo que será, de lo ojalá y el nunca más. Y mientras mis ojos puedan ver hacia adentro y puedan nombrar algunos de mis sentimientos y mi pensamiento pueda volar. Quindi diciamo che sì, è finita. È finita, è andata anche in maniera abbastanza negativa. Infatti, appunto, oggi la Corte Suprema di Santiago del Cile doveva concludere l'udienza e le arringhe per valutare la nullità della condanna per il, caso Pisu Pisue, come vi dicevo, appunto, per cui tutti erano stati assolti tranne Facundo. La difesa ha questionato che la legge di intelligenza nel processo penale aveva filtrato con dei precedenti allucinanti, e quindi questo legame di pressioni sulla procura era stato palese, e quindi si chiedeva la nullità del processo. Abre tu corazón a las palabras verdaderas, a las que hablan al alma y recuerda la canción de la lluvia sobre la selva, el fluir del río hacia agua. Oh, dis-moi quelle histoire est plus belle que celle de ton miroir. Oh, dis-moi quelle histoire. Cuenta la historia de mis cicatrices. Oh, dis-moi quelle histoire est plus authentique, autant dire les choses vraies tant qu'on peut les voir. Je raconte mon histoire. La palabra es semilla que nace de las flores de la sabiduría. También le cuento, la corte rechazó el fallo y se sigue con la condena de 9 años. Eso fue lo que dijeron. Insomma, l'avete capito. L'audiencia rechazó el fallo, quindi diciamo che nonostante questa immensa mole di vergognose, come si dice, niente, ragazzi, ho l'embolo un attimo in corso, niente, insomma, nonostante sia chiaro alla luce del sole che la procura è stata pressionata, che Facundo Gionesual è stato spiato, che insomma siano successe delle cose fuori dall'umana concezione di giustizia, purtroppo questo giudizio, che è un giudizio politico, è chiaramente una battaglia bellica che si combatte sul territorio della giustizia. Per quanto riguarda l'attacco a Facundo Gionesuala, se ne è altamente fottuta. Questo quando succede? Questo succede quando i governi di Cile e Argentina ricevono delle condanne dalle grandi istituzioni del primo mondo del cavolo dei diritti umani, che li obbligano a delle multe. No, non li obbligano, gli fanno delle multe, ma poi invece pagarle non lo controlla mai nessuno, e quindi l'impunità diventa di diritto, diventa costituzionale, e questo è quello che succede. Diciamo che forse se dovremmo dare anche un po' una svegliatina noi, così vagamente. Vaya chiringuito que tenéis montado, para repartir entre vosotros el bacalao. Todo atado, bien atado, para ser los reyes del sarao. Jurao que eso se ha acabado, bla bla bla. Tanto piqui piqui. Vabbè, momenti di alto odio, eh. Alto proprio, eh. No quiero tu rollo, llegaron estas monas reventando el monopolio. Multan gaude burrukan. Mezua zabaltzen beti aurrera. Suizinduko inola ez ba, ez ba, ez ba. Eldu da gure akelarria. Que se vayan acostumbrando a vernos sobre el escenario. Este mi capunda sin fallo. zurrun zorro turrun baino gertuago hor zulta lur fagi mon amor. Allora, visto che abbiamo ancora 27 minuti in cui io avrei, non ci riesco, io qua vi assicuro in Cile è impossibile parlare con chiunque perché è un momento abbastanza greve in questo momento, nel senso che essendo uno su 50 processi, non so quanti, in cui appunto il lonco viene messo perché è la forza anche molto, no? Quello che abbiamo sentito nell'intervista che gli abbiamo fatto, io vi... così vi invito ad andarla a sentire, a cercarla sul sito della radio, insomma ci mette un po' in crisi, diciamocelo, usciamo amareggiati qui per avere tutto, pensa lì che non c'hanno niente e stanno pure al gabbio, invece pugno alzato e sorriso, insomma a me non è che non mi metta in difficoltà, quindi vuol dire che siamo vivi e che ci pensiamo, no? Quindi comunque è una cosa bella e... probabilmente c'era una speranza in più perché questo di processo potesse avere un sapore differente, una finalità differente, una giustizia differente, che invece non c'è. E quindi io direi che quello che accade sempre quando ci viene un botto di rabbia è ascoltare questo brano, che significa estar de pie, rimanere in piedi, che è quello che da 3-4 anni, ma insomma anche da prima, e l'onco Weciafe Facundo Gione Suola ci sta insegnando insieme a tutto il popolo, a tutto il popolo di prigionieri politici mapuche che stanno nelle carceri, che non smettono mai di stare in piedi anche quando in piedi non si reggono, e di difendere la nostra acqua, la nostra aria, no? Noi famiglie vegani, la nostra aria, la nostra acqua, i nostri boschi. Este año se han registrado más de 130 atentados incendiarios que atribuyen a delincuentes mapuches. A mi lonco y a mi boss, con todo corazón. Moreno, mediano, cuerpo formado, cara redonda, frente estrecha, pómulos pronunciados, de aire grave, sombrío, como desconfiado, raza indómita, ¿de qué respeto habla el Estado? No hay trato, no, no hay entrevistas a la historia. Esta cultura no cabe en un museo, chivateo. La sangre pesa más que el agua, catrileo. A la prensa ya no le creo. Terroristas y mapuches, todos al mismo saco. Permanece en la trinchera como el negro matapacos. Lucha por la vida y sobrevivir será difícil. En la Araucanía se planea un nuevo atraco. Florecerá el canelo, también la flor del tiempo, como respeto de machi que permanece con el tiempo, como el viento, como el agua, como gente de la tierra. Inca, chileno, español, no hay tregua con su guerra. No me hablen de justicia, el sur es campo y se puso hardcore desde que enviaron la milicia, desde que el gobierno quema bosque y planta vinos con prisa. ¿Cuánto niño baleado sin salir en las noticias? Ellos se imponen con miedo, ellos se imponen con bala, pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego. Odio y fuego. Es odio y fuego. No defender un progreso que se esmera por doblegar, poner la pata encima y extender su frontera, con guerras disfrazadas de campañas para pacificar y relatar luego esa mentira en la escuela. Si una empresa saquea las tierras que escasean, ¿quién es quien para juzgar? Que tengan fuego las ideas. Yo no soy mapuche, pero conozco bien mi piel morena. Latinoamérica y Arauco corren por mis venas. Si tus derechos los vendieran en una subasta, odiaría y mendigarle dignidad al que te aplasta. Legítima es la lucha que no tranza si el mapuche avanza por no haberse contentado con promesas falsas. El pueblo para vencer tiene que aprender de Lautaro, Toki Bravo, sin temor a levantarse contra el amo. Un gran ejemplo para juventud ver al mapuche alzado y la miseria conformista del que aguanta dominado. Que lo que hacen es violento, perfecto, pero compare que sea honesto. Un allanamiento sangriento con niños adentro, con peñis pagando por ciento en cárceles del gobierno, con causas sin fundamento, solo para causar remordimiento. Dale tierra a quien la trabaje y devuelve lo usurpado. Tranquilidad para los niños del territorio recuperado. Que quede claro que entre Winca también hay compañeros y que juntos de algún modo tomaremos por asalto el cielo. Cuidado con los pacos que balean por la espalda. Cuidado con tu tierra porque intentarán comprarla. Cuidado con las trampas que el Estado Winca trama. Solo la fuerza logrará lo que no pudo la palabra. Ellos se imponen con miedo, ellos se imponen con miedo. con bala, pero no saben de nuestro odio, que es odio y fuego. España con espadas, ni Chile con balas, han podido contra la fuerza de la sangre araucana. Países diferentes, pero el mismo remate, tener el territorio para dárselo a un magnate. Nunca fue por la razón, siempre por la fuerza, y por la televisión lo que te dice la prensa. Es que la reacción del mapuche es violenta, pero con mi gente a eso le llamamos resistencia. En la escuela le pusieron pacificación de la Araucanía a su historia tan sangrienta. Le llamas educación a lo que nada te cuenta, y te mientes sin tener ni una vergüenza. Al rico el Estado lo respalda, y con plata de tu impuesto se financia cada arma. Como el karma, algún día esa bala que lanzó el asesino sentirá su propia espalda. Más de un pueblo indígena está amenazado por el capitalismo que quiere arrasarlo todo. El costo del desarrollo es que no quede nada, y por mientras consumir lo que se nos dé la gana. ¿Cómo sería que un día cambiarán por gas el aire que tu hijo respiraba? El canto de los pájaros por cartuchos de bala, la cara de felicidad por miradas cansadas. La rabia del mapuche crecerá en la batalla con la misma fuerza de una araucaria. Por su tierra sagrada no darán un paso atrás, por un mapuche muerto mil se levantarán. Que hoy día estamos asumiendo la lucha frontal contra la depresión del capitalismo. Nosotros tenemos que usar la violencia, y eso estamos claros, que nosotros asumimos la responsabilidad, y cada hecho y todo proceso de descolonización es violento. Cada hecho de descolonización es violento, por eso nos toca cruzar la violenta. Ogni fatto di decolonizzazione è violento, per quello siamo obbligati a incrociare la violenza. Queste sono le parole che direi ci fanno chiudere la parentesi di oggi riguardo al mondo mapuche, insomma la situazione in Wolmapu, quel mondo senza barriere, senza confini, dove Cile e Argentina non esistevano e se stava tanto meglio. Ancora Tremenda Cabria. Loro si rivendicano per essere un gruppo di trans reggaetonero, quindi queer reggaetonero. Y pa'l desasosiego, tragando saliva pa'l desasosiego. Pensamos que juntas desharíamos el nudo que en la tripa ulcera. No nos equivocamos, bajando la guardia pa' hacer que se crucen las manos. Nos enamoramos de nuestros propios enunciados. Soñamos con alma de mimbre, soñamos con no vernos esclavos. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que me estás diciendo, si yo me voy matando. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que me están diciendo, si yo me voy matando. Es una moneda trucada, el que lleva la luz le sale cara. Para el que va de frente le da la espalda, y al que se para le mece la corriente hasta dejarle la estacada. Ya no pido nada, tan solo quiero arder en la hoguera de tu mirada. Que empieza a latir al compás de mi corazón envuelto en llamas. Échame menos de más, agita mis dudas como un vendaval. Enséñame a volar cuando el camino me impida avanzar. No tengo miedo a la ruina, dijo que el sol me seque la herida. Ayúdame a cicatrizar todos mis recuerdos con agua del mar. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que ¿Qué me están diciendo? Si yo me voy matando. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que me están diciendo, si yo me voy matando. Cuando no tenía que ser, como hacer. Si las coordenadas no cuadran, se cruzan caminos. Pierdes el norte con la gana, no sabes volver. Supongo que tenía que haber controlado, yo que sé. A veces la vida no se me da bien. Ya escucha a los monstruos, me comen por dentro, eso ya me lo sé. Quisiera correr hacia atrás, pensar las cosas mejor, para luego sentirme bien. A fuego en la piel, mucho que aprender. No quiero caer en el mismo lugar hoy también. Cómo encontrar la calma que busco y no volverla a perder. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que me están diciendo, si yo me voy matando. Echándole una guerra al tiempo, tus ojos se van entornando. Parece que me están diciendo, si yo me voy matando. L'abbiamo messa un po' da parte la cumbia oggi, ma c'è sempre Tita Print a venirci in aiuto. Así, así, así de triste va la vida entera. Pero tengo tu sonrisa de bandera que me arrulle cuando truene la tormenta. Para que no oigas, para que quiera, para que esté de afuera. Desafiando la noche, sigo este camino. Porque tengo contigo un sueño que prender. Intanto domani è un'iniziativa tutta al femminile. Sto parlando di Witch Isabella al Porte Prenestino. Sarà pure una sorpresa. No, scherzo, non la faccio io la sorpresa. Ci saranno cose curiose comunque dalle celle in su. Scandito dal femminile, la giornata di domani, le streghe sono tornate. Witch Isabella. Ma la cosa più importante, l'avete capito? Sono 30 euro per mille di noi. Para verte otra vez. Para verte otra vez, princesa. Para sentirte en mi corazón y en mi cabeza. En mi corazón sintiendo esta vibración. Esta bendición que es unión real. Como rey y reina te acompañaré en este camino. Che poi mille possiamo essere, mille, duemila, tremila, nel senso che se non siete uno a fare 30 potete essere due a fare 15 e 15, insomma. Rubate la paghetta di vostro figlio nel salvadanaio, fate un po' come vi pare. Sa di fatto che qui per esempio mancherebbero tre lampadine, insomma, scherzo, alle 18:18 diciamo, siamo così, tra il serio e il faceto. Serio è che quello che avete sentito, ormai la radio ha anche un coro, non so se avete capito i miglioramenti dall'anno scorso a quest'anno, cioè non è che le cose qui le facciamo a caso. è che veramente, insomma, questo paese diventa sempre più stretto, tante cose che prima avevamo non le abbiamo più. Toda esta miseria no puede durar si late el deseo de vivir en paz. E quindi ci serve come sempre l'aiuto di tutte e tutti voi. Oggi tra l'altro tra queste mille cose dovevo fare una sorta di così di, come si dice, insomma, per vedere se state sentendo bene la radio o meno nella zona di Roma, di sondaggio, e invece mi sono dimenticata, lo so. Comunque direi fatelo lo stesso adesso che è all'ascolto, insomma, tanto anche durante il mezz'ores che inizierà, insomma, tra un quarto d'ora 20 minuti ci sarà modo di rispondere al telefono per farlo, ma in questi minuti fa, in questi giorni fatelo, no? Chiamateci, diteci da dove ci sentite e come, perché è importante, insomma, per noi. In plena battaglia sappiamo che il meno con capa e espada che armando trincerà con esta manada. Un asco clasista inunda las revistas, los diarios del odio, opinión del montón. Son cuerpos vacíos, hit de la autoayuda, ni a palo bancamos toda esa basura. Ok, Colle Prenestino si sente, grande Giacomazzo, un abbraccio forte. Quasi furiosa contro il patriarcato, lingua insurrecta, cuerpo castigato. Quasi furiosa contro il patriarcato, lingua insurrecta, cuerpo castigato. Quasi furiosa contro il patriarcato, lingua insurrecta, cuerpo castigato. Quasi furiosa contro il patriarcato, quasi furiosa contro il patriarcato. Beh, insomma, viva si furiosa contro il patriarcato, questo è il grandissimo collettivo Sudor Marica, molto vario, insomma, che accompagna appunto i cortei, le manifestazioni e il movimento argentino, che insomma sicuramente non si è fermato, non si fermerà, anzi diciamo che si sta bello scaldando, perché c'è un 8 marzo in vista in cui succederà il panico, e in più continua a lavorare per la nuova proposta della legge sull'aborto. Allora, noi proviamo ad andare avanti, questa volta a incontrare la grandissima Sara Ebbett insieme a Miss Soul. Noche salen los miedos y demonios de años atrás. No me podés ignorar, te voy a incomodar. Conozco la calle por ser una bruja, hija de la luna. Que aunque quemes, no se olvida. Que aunque quemes, sigue viva. La noche está tan linda, no voy a quedarme durmiendo. La noche es un gato y me está sonriendo. La noche me alumbra, ya la estoy siguiendo. La noche es hermosa negritud. No es que salga mucho, es que vuelvo poco. Deja de mirarme y hagamos algo loco. Te pongo en la lista, esta noche toco. Trae tu hermosa negritud. Nada contiene este cuerpo desbordado. El cierre abierto, el botón desabrochado. Siempre fui así, casi siempre salgo. Voy soltándome, me estoy desatando. Con tanta fue, moneda paraguaya. Aunque no parezca, estamos trabajando. Que no me crees, estás desconfiando. A mí me parece que estás proyectando. Esto empezó con una mala carta. Dama, dama de espadas, desenvainada. Clavándome, clavándose en mi espalda. Y alrededor, todo se quemaba. De la vieja estructura, no quedará nada. Como todo se termina, me lo imaginaba. Ahora estoy con mi vecina, estamos en su casa. Poniéndole tinta, poniéndole palabras. No puedo quedarme en la pantalla, abriendo mil ventanas y no salir por ninguna. En el fondo se aparece tu cara pincelada. Mándame una señal, de ahí afuera me señalan. Nosotras primero, fuimos potencia. Acá tenemos de todo, exportamos para afuera. No te quedes ahí, me gustaría que venga. La vas a pasar bien, no te la pierdas. A la noche somos de cartón, que estamos brillando sobre el apagón. A la noche pinta la emoción. Dale vos seguime, te mando ubicación. Camón, qué riquísimo ese bombón. Chocolate blanco, negro y marrón. Qué bomba, es una bomb. Mira esta que explota, ahora sí explotó. ¿Quién son? Le están poniendo ritmo y pasión. Baile de favela, danzo el reggaetón. y ya estoy ahí. Sin importarme qué puede pasar, a mí no me importa, hoy quiero explotar. Llamo a mi amiga, hoy nos vamos a divertir. Sea en la calle o en el party, no nos falta nada, baby. Oye tú, oye tú, yo te encuentro en la multitud. Hagamos, baby, una conexión. No quiero saber lo odio de tu nación. Siente el ritmo, la vibración. Creo en el karma, reencarnación. Por eso digo que el tiempo es hoy. Siente el ritmo, la vibración. Mueve tu cuerpo. A la noche somos de cartón, estamos brillando sobre el apagón. A la noche pinta la emoción, dale vos seguime y te mando ubicación. A la noche somos de cartón, estamos brillando sobre el apagón. A la noche pinta la emoción, dale vos seguime y te mando ubicación. Eh sì, scusate, era che intanto telefonano ancora per chiedere scarcerante da mandare in carcere. Toccate con mano quello che succede, di cui sentite raccontare tanto. Allora io in chiusura sì, direi, vorrei mandare questo brano a qualcuno che forse molte e molti di voi conoscevano, che da un po' non c'è più. E però non si riesce a chiudere questo cerchio perché non ce lo fanno arrivare. Io sto parlando chiaramente di Alessandro, sto parlando di Pelo, che invece probabilmente così, dopo quasi 2 anni direi, finalmente è un po' più vicino e che ci manca. Però a volte è difficile, no? Chiudere i cerchi se uno sa che una persona non c'è più, però non riesce a materializzare un passaggio che a volte sembra, chissà perché, terribilmente difficile da fare. E allora io lo vorrei sentire più vicino a me con un brano che sicuramente gli sarebbe piaciuto, perché so che i Molotov gli piacevano tanto. Però in questo caso, e dopo soprattutto credo 20 anni da quella canzone che spesso abbiamo sentito insieme, Caro Pelo, mannaggia a te, ve la voglio far sentire in una versione live con una voce femminile che si infila veramente, veramente bellissima. No, invece ho sbagliato tutto, perché invece non era Give Me The Power di cui parlavo, ma di questa Hit Me, che vediamo se riesco a sentire, che comunque è appunto una canzone di una certa potenza e che in questo caso appunto appare la mitica Anna Tijoux. Ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD, o cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México. Luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros, pero él tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa a nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me? Well, now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me? Ah, bello, c'hanno tutti i capelli mezzi bianchi questi, eh? Think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad, yeah. So you think you're gonna hit me? Diciamo che c'è un abbraccio comune che voglio fare a una serie di persone in queste ultime 2 settimane. Loro lo sanno chi sono. Perché sarà un poco guai. gas con agua mineral porque tu creiamo. Vi posso dire una cosa, quando ci vediamo facciamoci bene, perché la merda piove dal cielo, come vedete. Un'arma para... Quindi facciamoci di ombrelli, facciamo che siamo ognuna l'ombrello dell'altro, ognuno l'ombrello dell'altra. Desaiudete a mandarla all'inferno. Sotto questi ombrelli noi impariamo a farci bene, eh? Sembra un po' un'applicazione in via d'estinzione pure questa. Me la dedico io. C'è una specie di metronomo, un 24esimo, un testa. Con il nome del dia jueves, e con il dia che te vi che era numero 9, e milagrosamente cae la nieve, non ti olvides de mi nombre, Sara, bebé. Ay, como me duele, todo a vos me huele, dejaste tus aromas tan crueles. Por eso yo, por eso yo, por eso yo. Tuve que quemar la cama, tuve que quemar la sabana, tuve que quemar la almohada, tuve que quemar la foto de mi mamá, na, na, na, na, na. Tuve que prender fuego el balcón, tuve que quemar la cúpula del Congreso de la Nación, yo. Tuve que quemar el messenger, tuve que quemar todo el ayer y el anteayer. Tuve que prender el gas, tuve que explotar el balcón, el de atrás. Tuve que quemar la planta, tuve que quemar la planta, tuve que quemar. Quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar, quiero quemar. Quiero que venga un amigo, quiero que venga a quemar conmigo, para olvidar y ayudarme a quemar el acolchado. Tengo que quemar el departamento de al lado, ajá. Tengo que quemar todo lo que dejaste perfumado. Quemo, quemo, quemo y los labios me muerdo. Esto parece el infierno. Voy a quemar mi cuaderno, no tiene sentido. me parte la mente. Pongo el encendedor y le doy fuerte. Quemo, quemo, quemo, quemo, olor a muerte. Quemo la mala suerte de no tenerte. Ay, qué mala suerte la de no tenerte. Qué mala suerte, qué mala suerte. Olor a muerte, olor a muerte. Tuve que quemar. Tuve que quemar. Con gomina, tuve que quemar a todas las minas, tuve que quemar la lámpara, tuve que quemar ese amor que me desampara, tuve que quemar la pregunta, como dónde y para qué se inventó el amor, para quemarte, para quemarte, para quemarte, tuve que quemar, voy a quemar, tuve que quemar. 18-38 minuti, che qua io mi allungo, ma basta mai. E che devi fare? Vi lascio nelle mani capaci di questo Mezzedes. Regalate un mazzo di chiavi a questo Mezzedes. Che poi lui chiede a me che sto bruciata e gli porto il giorno sbagliato. Qua mica invecchiano solo i Molotov, sa? Sì. Va bene, abbiamo salutato chi dovevamo salutare, abbiamo maledetto chi dovevamo maledire. Alle 18:38 minuti ci sentiamo giovedì prossimo con un saluto sempre in particolare a tutte e tutti coloro che non possono godere della propria libertà e questa volta vai a Milonco, Weciape Facundo. Tutti i giovedì dalle 17. Tola la balla, se vanno a devolver. Ciao e a giovedì prossimo. Se tiene que unir para luchar para que la crisis no la pague el pueblo. Nosotros queríamos la mitad del poder, no lo queríamos todo. Tutti giovedì dalle 17 sugli 87.9 Radio Andalusia.